Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Europa dura con Londra. Juncker dice niente giochi, dettiamo noi l'agenda. Merkel, la Gran Bretagna non può mantenere privilegi senza obblighi. Le borse provano il rimbalzo. Milano guadagna oltre il 4%, trascinata dalle banche. A Palazzo Chigi si lavora al piano per sostenerle. Un'impresa impiega 270 ore l'anno in adempimenti burocratici, dice Confartigianato, più 28 miliardi di tasse rispetto alla media europea. Un'altra donna uccisa dall'ex convivente, è successo a Modena, lui ha confessato, e dopo il caso nel Salernitano un nuovo stupro di un gruppo di ragazzini a Savona. Domani in Campidoglio la camera ardente per Bud Spencer, morto ieri. Sono sconvolto, dice Terence Hill, i 16 i film fatti insieme. Appuntamento alle 21, sabato prossimo 2 luglio si gioca Italia-Germania, quarti di finale degli europei. Addio polemico al PD milanese della rappresentante musulmana moderata. Avete scelto la parte oscurantista, dice, parleremo con lei. Spiaggia, arriva la formula abbronzati o rimborsati, paghi un euro in più e se piove ti ridanno i soldi del lettino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, il nostro canale Telegram per le anticipazioni, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque il Consiglio Europeo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Nessun negoziato informale, nessun trattamento speciale. L'Europa non vuole fare sconti a Londra. La plenaria del Parlamento Europeo ha intanto approvato poco fa una mozione a larghissima maggioranza per reclamare l'attivazione immediata della procedura di uscita, mentre il Consiglio Europeo, che si riunisce nel pomeriggio, cercherà di tracciare la linea su tempi e procedure per la Brexit. Un Consiglio a 28, domani sarà invece a 27, seguito da una cena che sarà presumibilmente l'ultima con David Cameron. Il premier britannico, come sappiamo, ha già comunicato che non attiverà formalmente la procedura, sarà il suo successore a farlo dopo il voto di settembre. Sono allergico alle incertezze, incalza invece il presidente della Commissione Juncker. L'ora è grave, Londra rispetti la volontà del popolo e niente giochi, chiarendo che sarà l'Europa a dettare l'agenda, non il Regno Unito. Juncker poi smentisce le voci su una sua presunta sostituzione motivata, tra le altre cose, da problemi di salute. Je ne suis ni fatigué, ni malade, comme l'écrivent les journaux. Non sono né stanco né malato, combatterò fino al mio ultimo respiro per una Europa unita, dice Juncker. E sulla tempistica anche Francia e Italia vorrebbero accelerare, va bene lo shock ma questo è il momento di reagire, di voltare pagina, dice Renzi, non si può perdere tempo, mentre per la Germania occorre attendere che il nuovo premier attivi l'uscita. In ogni caso anche il messaggio della Merkel è chiaro, prendiamo atto che Londra non ha ancora presentato richiesta formale di uscita, ma Londra prende atto che nessun colloquio informale potrà partire prima. Infine la Merkel vorrebbe convincere Londra a rinunciare alla presidenza del secondo semestre dell'anno prossimo. Niente privilegi, senza obblighi. E per il momento è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Per quanto riguarda i mercati, la giornata di oggi è caratterizzata da un tentativo di rimbalzo. Milano guadagna in questo momento il 3,5% sul FTSE MIB e il 3,45% sul FTSE All Share. Listino trainato dalle banche che recuperano qualcosa dopo i forti cali delle ore scorse. UbiBanca guadagna l'8,02%, Mediobanca il 7,9%, la Popolare Milano il 5,07%, Intesa San Paolo il 4,8%, mentre UniCredit guadagna il 2,8%. Sui mercati torneremo più avanti, come sempre, nell'appuntamento delle 13.30. Intanto, proprio sul tema delle banche si concentra l'attenzione. Palazzo Chigi sta pensando ad un piano per aiutarle. Nel frattempo, però, appunto, le vendite si concentrano e si sono concentrate nelle ore scorse proprio su questo. Abbiamo in linea Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come mai le vendite si sono concentrate proprio sulle banche, molto anche sulle banche italiane? Allora, i motivi sono due. Il primo è strutturale. Le banche italiane hanno delle vulnerabilità note del motivo per cui crollavano in borsa, scendevano in borsa già prima del referendum di Brexit. Sono i crediti in sofferenza, sono una bassissima capacità di generare utili perché i tassi sono a zero, quindi i ricavi sono molto bassi per le banche, una struttura di costi molto alta, quindi hanno ancora una serie di fragilità molto forti. Non che altri sistemi bancari non siano fragili come quello tedesco, che ha molti derivati, o quello francese, ma il nostro ha le proprie fragilità. Sopra queste fragilità si è inserito la grande incertezza di Brexit. Gli investitori, dal momento in cui temono che Brexit possa creare un effetto centrifugo in Europa, quindi portare a una disgregazione o comunque una serie di problematiche maggiori in Europa, tendono ad uscire dai paesi ritenuti più deboli, tra questo l'Italia. Una volta lo facevano vendendo titoli di Stato, difatti si allargava lo spread, ma oggi che la BCE compra i titoli di Stato, nessuno va più a scommettere sui titoli di Stato, e quindi sono andati tutti, la furia della finanza, dei mercati finanziari, si è andata a scaricare proprio sul settore più debole e più simile, più in linea con il rischio paese in generale, cioè il settore bancario. È per questo che sono crollate tutte le banche, sia quelle sane sia quelle non sane, o comunque più in difficoltà, anche perché il mercato teme che, siccome ci sono alcune ricapitalizzazioni probabilmente in arrivo, teme che le banche più solide siano costrette ancora una volta a mettere i soldi per aiutare le banche più deboli. Quindi questo ha causato un crollo indistinto e generalizzato sia sulle banche ritenute più deboli sia quelle molto forti, come per esempio Intesa San Paolo. Ti ringrazio, grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore, che oggi dedica un altro speciale al post-Brexit, uno speciale di 16 pagine. Veniamo alle cose più strettamente italiane, il rapporto di Confartigianato presentato questa mattina, interviene anche il ministro Padoan per parlare di tasse. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, burocrazia e tasse sono questi due macigni che pesano sul mondo produttivo del nostro paese, e quanto emerge dall'assemblea della Confartigianato. Non vediamo ancora i tanto attesi effetti concreti della riforma della pubblica amministrazione, spiega allora il presidente Merletti. Per l'86% degli imprenditori resta la complessità delle procedure amministrative. Solo per gestire gli adempimenti fiscali servono 269 ore l'anno, 92 ore in più rispetto alla media dei paesi OCSE. Bene i provvedimenti adottati dal governo per attenuare il carico fiscale sulle imprese, ma questi non bastano, dice ancora la Confartigianato. Lo spread fiscale tra Italia ed Unione Europea è sempre troppo elevato, 28 miliardi nel 2015, in pratica gli italiani pagano 461 euro di tasse a testa in più l'anno rispetto alla media europea. E sulle tasse arriva la replica del ministro dell'economia Padoan, che ricorda il bonus IRPEF e la cancellazione della TASI sulla prima casa, insieme alla cancellazione della componente lavoro dell'IRAP, dell'IMU sugli imbullonati e dell'IMU agricola, ha determinato un alleggerimento del carico fiscale di 20 miliardi. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Noi passiamo alla cronaca. Due violenze su due ragazze, entrambe compiute da branchi di minorenni. Vi abbiamo raccontato di quel che è avvenuto a San Valentino Torio, dove una ragazzina di 16 anni è stata stuprata da tre quasi coetanei in un garage della cittadina del Salernitano. Più avanti parleremo col sindaco, tra l'altro. Oggi emerge un'altra vicenda simile a Savona. Una trappola, se sei sola vengo a casa tua, guardiamo la TV, ci sono anche due amici, ha detto il 17enne alla fidanzatina appena maggiorenne. La ragazza c'è cascata e li ha fatti salire nell'abitazione. Savona, una sera d'inizio estate. Il programma era un altro. I tre, tutti tesserati per la squadra giovanile di un'importante società di calcio, hanno usato violenza nei confronti della 18enne. Abusi sessuali, sputi, botte, e a turno hanno filmato la scena con lo smartphone. Dopo un paio di giorni la ragazza si è confidata con alcune amiche e poi ha raccontato tutto ai carabinieri e ai medici dell'ospedale, che hanno accertato le violenze subite. I tre giovanissimi calciatori sono stati arrestati ieri mattina al rientro dalla Spagna, dove avevano partecipato ad un torneo internazionale. Ad inchiodarli i video archiviati nella fotogallery di un cellulare. Nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare con le accuse di lesioni e violenza. Per il Tribunale dei Minori la misura restrittiva è motivata dal rischio che i tre 17enni possano inquinare le prove e reiterare il reato. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Genova. E a Modena un nuovo femminicidio. L'avrebbe uccisa dopo l'ennesimo litigio, poi avrebbe nascosto il cadavere in un frigorifero in cantina. Questa è la fine di Betta Fella, 55 anni, di Modena. A chiamare le forze dell'ordine e i vicini di casa, preoccupati per il cattivo odore. Forze dell'ordine che subito si sono messe alla ricerca dell'ex compagno, un cinquantenne rintracciato nell'abitazione di un'amica. In tasca le chiavi di casa e della cantina della donna. Non ci ha impiegato molto a confessare il delitto. L'uomo, che aveva alcuni precedenti penali, in passato era già stato denunciato per maltrattamenti. Un'altra vittima dunque di un uomo violento, ma anche di un meccanismo che si inceppa e non riesce a proteggere chi sa di essere in pericolo, chiede aiuto. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'estero. Il direttore generale del Ministero degli Esteri israeliano, Dore Gold, ha firmato ufficialmente a Gerusalemme l'accordo di riconciliazione con la Turchia. Analoga procedura è avvenuta ad Ankara da parte turca. Per un commento su questo accordo di riconciliazione abbiamo in linea Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa rappresenta questo accordo? Beh, intanto, come tu hai detto, è stato firmato da funzionari, sia pure di alto livello, ma da funzionari, non dalla parte politica, anche perché per Bibi Netanyahu è stato un problema, perché ha avuto critiche sia dalla parte destra del suo governo di centrodestra, sia dell'opposizione laburista. L'importanza principale per quanto riguarda Israele, per quanto riguarda il Medio Oriente, oltre il fatto che Israele e Turchia riprendano appunto il loro dialogo, riprendano la loro collaborazione, ma sarà una collaborazione comunque fredda, perché la Turchia, per i conflitti ai quali partecipa il Medio Oriente, non può riprendere le relazioni con Israele che aveva prima, ma è molto importante per Gaza, nel senso che la Turchia si accolla comunque la ricostruzione in qualche modo di Gaza, e in qualche modo, anzi in qualche modo molto concreto, impedirà l'imminente scoppio della prossima guerra di Gaza, che prima o poi sarebbe comunque esplosa, perché la Turchia in qualche modo farà da garante anche per i comportamenti di Hamas. Ti ringrazio, grazie ad Ugo Tramballi per questa analisi in diretta. Restiamo all'estero. Senza interventi adeguati entro il 2030, 69 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni moriranno per cause prevedibili. È l'allarme lanciato dall'UNICEF nel rapporto 2016 sulla condizione dell'infanzia nel mondo. Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF, al microfono di Alessandra Iannuzzi. Noi siamo molto preoccupati, perché se stiamo alle stime di questo rapporto, il 2030 è un anno in cui in zone come l'Africa subsahariana avremo la metà di quelle morti di quei 69 milioni di bambini di cui parla il rapporto prima dei 5 anni. Bisogna dare una possibilità a questi bambini, investire sulla loro istruzione, che è fondamentale, cercare di creare nuove classi dirigenti in quei paesi che possano farsi carico di una rinascita, di uno sviluppo. E poi soprattutto, noi non siamo delle Cassandre, noi siamo soltanto un'organizzazione che prevede quello che può accadere, e ogni volta ci ritroviamo invece questo mondo a rovescio che sembra girarsi dall'altra parte. Il nostro appello è quello di risolvere le gravi crisi umanitarie che sono sempre più diffuse, senza cedere all'indifferenza che in qualche modo spesso non ci fa vedere quello che può accadere, e poi quando purtroppo avviene a pochi chilometri da casa nostra ci turba e ci mette paura. In Vaticano adesso la dedizione e la fedeltà che arriva dal luogo dove vive il Papa Emerito Benedetto XVI danno forza a me e a tutta la Chiesa. Lo dice Papa Francesco, rivolto a Josef Ratzinger, incontrato oggi nel 75° anniversario del sacerdozio. Nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche sollevate da chi sostiene che nella Chiesa attualmente convivano due papi, circostanza respinta con forza da Bergoglio, che ha sempre ricordato la piena fedeltà da parte del Papa Emerito. La morte di Bud Spencer. Nella mia vita ho fatto tutto, tranne due cose. Il ballerino d'opera non l'ho potuto fare, e il fantino di ippica. Raccontava così di sé Bud Spencer in una delle sue ultime interviste. L'attore, il cui vero nome era Carlo Pedersoli, classe 1929, è stato soprattutto un grande nuotatore in gioventù, 10 volte campione, con tanto di record mondiale nei 100 metri stile libero e una medaglia d'argento agli europei, e 2 volte olimpionico. Ma per tutti era il gigante buono del cinema, quello che dava schiaffoni in coppia con Terence Hill negli spaghetti western anni 70. Nella sua lunga carriera ha partecipato a 128 film, tanti quelli popolari, dai 4 dell'Ave Maria lo chiamavano Trinità, da Piedone lo Sbirro ad Altrimenti ci arrabbiamo. Tutto tranquillo, eh? Ma di che ti preoccupi? Di tutto. Ma anche thriller come 4 mosche di velluto grigio, diretto da Dario Argento, cinema d'autore come Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi e film di denuncia come Torino Nera di Carlo Lizzani. L'ultima apparizione era stata in TV nel 2010 nei Delitti del cuoco, una fiction di Canale 5. La camera ardente di Bud Spencer sarà allestita su richiesta dei familiari domani in Campidoglio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo agli europei di calcio, iniziamo da qua. Coro di tifosi che accoglie l'Italia al ritorno al ritiro di Montpellier. Dario Ricci, nostro inviato in Francia, ciao Dario. Eh sì, straordinario, 400-500 persone hanno aspettato gli azzurri nel rientro nel loro albergo qui a Montpellier, da dove vi parlo. Entusiasmo sincero, genuino, quello che sta suscitando questa nazionale che è stata così salutata al rientro da Parigi, dall'impresa. Ed è il secondo giorno di fila, abbiamo qualche problema a collegarci col nostro Dario Ricci. Facciamo una cosa, va, ci prendiamo un attimo di pausa musicale, perché sta arrivando un grande evento, una serie di concerti di Bruce Springsteen in Italia. Ce ne parla il nostro Daniele Biacchesi, e poi magari più tardi proviamo a ribeccare Dario Ricci, proviamo una connessione diversa e vediamo se funziona. Il boss torna in Italia per tre date che hanno il sapore della sfida alla crisi. In uno dei momenti più difficili per l'economia che ruota intorno alla musica, gli show di Bruce Springsteen riempiranno per due giorni lo stadio di San Siro di Milano, 3 e 5 luglio, e il Circo Massimo di Roma, il 16 luglio. Decine di migliaia di biglietti venduti in prevendita. Del resto tra Springsteen nel pubblico italiano c'è un feeling che dura da almeno 35 anni. Nel lontano 11 aprile 1981, in oltre 5.000 varcano i confini tra Italia e Svizzera per assistere alla presentazione del leggendario The River all'Halle Stadion di Zurigo. Per una sera gli italiani, abituati a sconti durante i concerti, pagano un biglietto salato per quei tempi. Vengono accompagnati da hostess e steward nei posti a loro assegnati e ballano per oltre tre ore al ritmo del rock and roll. Per vedere il boss giungere in Italia i fan devono attendere 4 anni, fino al 21 giugno 1985. 65.000 persone assiepate come sardine dentro uno stadio che bolle a 40 gradi vengono travolti dalla potenza della E Street Band, 28 canzoni che si dipannano da Bonnie USA a Rockin' All Over the World. Acustico, elettrico, senza più sassofonista e amico fraterno Clarence Clemons, il boss è tornato molte altre volte in Italia fino alla prossima domenica. Il suono inconfondibile, la carica emotiva, la potenza di un rock che sembra non avere mai fine, fa di Bruce Springsteen l'unico vero erede della tradizione della ballata americana contemporanea, del lungo e tortuoso Mystic River di Woody Guthrie. Abbiamo lasciato in sospeso il collegamento con il nostro Dario Ricci, inviato in Francia. Lo recuperiamo subito dopo il traffico, dove poi inizieremo anche il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Milano, dove Marianne Ismail, musulmana moderata, ha deciso di dimettersi dalla segreteria del Partito Democratico a Milano perché dice hanno scelto gli ortodossi, gli oltranzisti. E poi parleremo di questa piccola vicenda, così anche per parlare di qualcosa di un po' più allegro, visto che si avvicina all'estate, a Jesolo, dove hanno deciso di rifondere i turisti se piove. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del Consiglio europeo che si sta aprendo in queste ore, molto importante dopo il referendum sulla Brexit, di borse che provano il rimbalzo, ci torneremo più avanti, di burocrazia che soffoca le imprese nei dati di Confartigianato, e abbiamo parlato anche di uno stupro di gruppo avvenuto ai danni di una minorenne. Adesso torniamo in Francia, torniamo agli europei di calcio per recuperare il nostro inviato Dario Ricci. Dario, eccoci. Eccoci qua. Dove eravamo rimasti? Forse a raccontare quelle che erano le novità dell'allenamento di questa mattina, perché come d'abitudine azzurri subito in campo per un allenamento leggero, ma è anche un segnale che Conte manda alla truppa, nel senso che l'impresa con la Spagna è sì grande da essere consegnata già ai libri di storia, ma in quanto tale va già messa in archivio. Si guarda la Germania, si guarda a sabato alle 21 a Bordeaux la sfida con i campioni del mondo, allenamento mattutino del praticante, come dicevamo Buffon ha lavorato a parte come d'abitudine in queste situazioni, Candreva lavoro differenziato ma dallo stiramento non recupererà di fatto il suo europeo, molto probabilmente, anzi certamente già finito, tiene in apprensione Daniele De Rossi perché oggi non si è allenato, ieri è uscito per un duro colpo all'anca, nel pomeriggio gli esami strumentali preciseranno l'entità di questo infortunio ed è chiaro che la presenza o meno di De Rossi contro la Germania, e visto anche il De Rossi ieri per 53 minuti ha incantato Saint-Denis, diventa a questo punto uno snodo cruciale per pensare alla formazione antitedesca, dove comunque non arriveranno le gambe, arriveranno la testa e il cuore, e su quello come ci hanno anche confermato i giocatori nel dopogara di ieri a Saint-Denis, con Conte non c'è il rischio di sbagliare e di mancare l'obiettivo. Speriamo davvero. Grazie dunque a Dario Ricci, nostro inviato in Francia. Si tornerà a parlare di tutto questo ovviamente in tutti i convocati a partire dalle 14. Adesso noi iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Milano. Marianne Ismail, buongiorno. Buongiorno a noi, a lei. Marianne Ismail si è dimessa, allora 56 anni, ha 35 anni in Italia, membro della segreteria del PD milanese, ha deciso di dimettersi dalla segreteria del PD milanese. Perché? Perché è stata fatta una scelta, per così dire, secondo lei, quella da parte del PD milanese di dialogare con quello che potremmo definire un Islam oltranzista, è così? Esattamente quello che viene riportato dalla mia lettera aperta che ho inviato anche al primo ministro e segretario Matteo Renzi. Sì, in che modo avviene questo dialogo con l'Islam oltranzista secondo lei? Ma guardi, il dialogo viene in una scelta di interlocutori che ovunque in Italia appaiono sempre di più connotati con un tipo di ideologia islamica, che è un'ideologia che porta insieme politica e religione e quindi rappresenta solo una parte, diciamo, del mondo islamico. Sembra che sia il governo con la consulta che ha formato il ministro Alfano, che ha membri specifici proprio in grandissima maggioranza dei membri dell'UCOI, e nella mia città è successo che il mio partito ha scelto di rappresentare la candidata ora eletta consigliera Sumaya, anche se non donna di partito, in quanto che rappresentante e dialogante con quel mondo islamico che loro pensano sia il mondo maggioritario islamico. In realtà non è così. Io da anni, da quando si è decisa la costruzione della moschea a Milano con la giunta Pisapia, ho sempre avversato in maniera aperta, corretta e istituzionale il fatto che quel tipo di procedimento, quel tipo di percorso non ha in sé tutte le anime dell'Islam. L'Islam africano non è presente, l'Islam sufico non è presente e viene semplicemente sempre sostenuto e portato avanti questo tipo di Islam che si rifà un po' all'ideologia dei fratelli musulmani, quindi a, ripeto, la commissione fra politica e religione, e che a me come donna musulmana somala non sta assolutamente bene. Il riferimento è alla persona Sumaya Abdel Kader, che è una sociologa musulmana ortodossa. C'è anche una questione che pone lei su come questo tipo di Islam si comporta con le donne, no? Sì, guardi, io non ce l'ho assolutamente con Sumaya in quanto donna, in quanto lei, persona che conosco assolutamente direttamente su di lei, è una persona per bene. Il punto è che questa visione anche della donna islamica, proprio perché aderente a quel tipo di rappresentazione, a quel tipo di stereotipo, a quel tipo di politica commissionata con la religione, si vuole che le donne siano rappresentate in questi termini, si vuole che quel tipo di orientamento sia predominante, e questo, devo dire, appunto, in quanto islamica lei, islamica io, ho sempre cercato invece di moderare, ho sempre cercato di rappresentare anch'io la mia parte islamica, quindi non è un discorso fra me e lei, e questo discorso l'avrei fatto anche in caso di vincita. Sì. Guardi bene, a me non importa che abbia vinto o non abbia vinto, che la sottoscritta ha perso, assolutamente no, l'avrei fatto anche se avessi vinto io. Senta, sono arrivati molti appelli perché lei ci ripensi, non ha intenzione di farlo? No, io non ho intenzione di ripensarci, anche perché attendo la risposta del segretario Matteo Renzi. Su questo sono chiarissima, proprio perché noi facciamo parte di un mondo islamico variegato, che è la stragrande maggioranza del mondo islamico, e la stragrande maggioranza che chiede che il segretario del maggior partito d'Italia, Matteo Renzi, si pronunci, mi ascolti, ci ascolti, perché far finta di nulla significa relegare centinaia di migliaia di persone a un ruolo subordinato, laddove, mi scusi, poi noi saremo quelli che saranno organizzati, orientati e comandati, è una parola un po' forte, mi rendo conto, ma così sarà, perché la gestione di una moschea con quell'orientamento e con quell'indirizzo non potrà essere assolutamente aperta a tutti. E questo lo dico in tempi anche non sospetti, al di là delle ultime elezioni, l'ho detto l'anno scorso, l'ho detto 5 anni fa, ho scritto e ho sostenuto una lettera al sindaco, allora sindaco Pisapia, e non recedo. Quindi Matteo Renzi deve ascoltare l'antropologa Marian Ismailla, in quanto che è donna che è stata nel suo partito, militante, che si batte laicamente per tutti i diritti e per tutto, come dire, l'avanzamento di tutta l'inclusione sociale delle persone, da italiani o stranieri che fossero. Quindi il mio percorso è specchiato. Chiedo, se mi sente, se ha questa occasione, il premier e segretario Matteo Renzi, di rispondermi. Di rispondere. La ringrazio. Grazie a Marian Ismail, ex componente dunque a questo punto della segreteria del Partito Democratico a Milano. Ci pigliamo un attimo per un argomento un po' più leggero nel nostro giro per l'Italia e ci spostiamo a Jesolo. È con noi Michele Bergamo, responsabile di Oro Beach, una delle spiagge di Jesolo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, com'è questa formula? Se piove ridate i soldi alle persone che affittano ombrellone e lettino? Sì, allora diciamo che è una formula che abbiamo istituito ancora un paio d'anni fa, proprio per le problematiche delle condizioni meteorologiche a volte previste incautamente dalle varie app che ci sono negli smartphone. Perché là c'è anche una grande battaglia che tra l'altro parte proprio in Veneto con, noi lo sappiamo, il presidente della regione, ce l'abbiamo avuto anche in qualche occasione in trasmissione su questo, che è imbestialito con quelli che fanno le previsioni perché dice ci rovinano il turismo. Sì, perché noi essendo nel litorale abbiamo un microclima che a volte si differenzia da quelle che sono le previsioni generiche magari della zona. Sì, esatto. Quindi noi abbiamo istituito questa opportunità per i nostri clienti e anche per i venturi di poter usufruire di un servizio di rimborso nel caso l'ARPAV, che è la nostra stazione meteo, rileva 3 mm di acqua tra le 11 del mattino e le 17 del pomeriggio. Fantastico. E costa qualcosa in più? Sì, prevede un costo di un euro aggiuntivo a quello che è l'acquisto dell'ombrellone, della piattona. Senta una cosa, ma questa cosa delle previsioni che a volte arrivano un po' a caso da siti non verificati vi devasta? Sì, abbastanza. Abbastanza, perché magari nell'entroterra a qualche chilometro di distanza da noi la gente non parte perché magari le previsioni non sono proprio così positive, invece poi nel litorale si svolge una giornata magari di sole, ecco. Questo sì, ci devasta abbastanza. La ringrazio, grazie Michele Bergamo, responsabile di Oro Beach a Jesolo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, è una giornata importante anche quella di oggi. Poi parleremo con Michele Strianese, che è il sindaco di San Valentino Torio, il luogo dove è avvenuto quello stupro di gruppo ai danni di una ragazzina. Poi vi racconteremo una storia di un insegnante che ha un'emiparesi, è stata rifiutata dalla scuola, adesso ha fatto ricorso e poi ha ritrovato lo stesso dirigente della scuola in un'altra occasione, le ha creato ulteriori problemi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'Europa dura con Londra, Juncker dice niente giochi, dettiamo noi l'agenda, Merkel, la Gran Bretagna non può mantenere privilegi senza obblighi. Le borse provano il rimbalzo, ci arriveremo tra un attimo. Milano guadagna oltre il 3%, a Palazzo Chigi si lavora al piano per sostenere le banche. Un'impresa impiega 270 ore l'anno in adempimenti burocratici, dice Confartigianato, più 28 miliardi di tasse rispetto alla media europea. C'è un'altra donna uccisa dall'ex convivente, è successo a Modena, lui ha confessato, e dopo il caso nel Salernitano un nuovo stupro di gruppo di ragazzini a Savona. Domani in Capitolio la camera ardente per Bud Spencer, morto ieri. Sono sconvolto, dice Terence Hill, i 16, i film fatti insieme. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e proseguiamo il nostro giro per l'Italia. Il nostro giro per l'Italia che adesso ci porta in provincia di Salerno. La vicenda ormai la conoscerete, una violenza di gruppo avvenuta su una ragazza di 16 anni, su una ragazzina di 16 anni, compiuta da minoreni, dai suoi coetanei che l'hanno trascinata in un garage e l'hanno violentata a turno. A questa storia se ne aggiunge un'altra, arrivata nelle ultime ore, arrivata da Savona, dove è accaduto un episodio simile. Una ragazza è stata raggiunta in casa dal suo fidanzato e da altri due amici che appunto l'hanno violentata in gruppo. Abbiamo in linea però, per parlare di questa prima storia della quale vi riferivamo, Michele Strianese, che è sindaco di San Valentino Torio, il paese dove tutto è avvenuto. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Immagino che ci sia una comunità scioccata. Assolutamente sì, primo fra tutti io, con l'intera amministrazione, ma come diceva lei tutta la comunità, siamo senza parole per l'accaduto, perché un fatto che sconvolge rispetto a quelli che sono i nostri ideali, i nostri valori, quelli che da sempre vengono portati avanti nella nostra cittadina. Sento una cosa, sindaco, a me interessa questo. Voi, i sindaci, noi li ospitiamo spesso in questa trasmissione perché sono un po' la prima linea dello Stato, no? Soprattutto in comuni piccoli come il vostro, voi avete circa 10.000 abitanti. Sì. Come può reagire un sindaco, un primo cittadino, e come si può muovere per, come dire, anche diffondere una cultura diversa che faccia sì che fatti di questo genere possano non avvenire più? Ma guarda, noi siamo veramente attoniti, perché proprio perché noi già lavoriamo tanto su questi fatti, cioè sulle politiche giovanili, sulle politiche sociali. Noi siamo un'amministrazione molto giovane che collabora tantissimo con il mondo religioso, quindi con le parrocchie, con l'oratorio. Abbiamo un variegato mondo di associazionismo e di volontariato nel nostro paese, quindi ecco perché siamo un po' tutti increduli. Abbiamo appena finito una conferenza stampa con i parroci del mondo dell'associazionismo, perché sono tanti i messaggi che mandiamo, sono tanti i fatti che realizziamo. Abbiamo proprio quest'anno aperto un centro per minori, un centro polivalente dove i minori possono fare aggregazione sociale. Abbiamo aperto quest'anno un centro di aggregazione giovanile. Abbiamo realizzato tantissimi eventi come di tipo educativo, per esempio corsi di chitarra, corsi di speaker radiofonico, corsi di spagnolo, di inglese. Abbiamo fatto tanto in questo senso e purtroppo ci ritroviamo in una situazione del genere. L'immagine che ne esce fuori del nostro paese è veramente distorta, purtroppo. Questa è una voce fuori dal coro, da un coro di onestà, di trasparenza, di rettitudine che da sempre i nostri nonni e i nostri padri ci hanno imparato a divulgare, ecco. Ma mi scusi, il paese è piccolo, lei li conosceva questi ragazzi, conosceva le famiglie? No, ma guardi, mi hanno fatto dei nomi, stiamo aspettando un po' anche i risvolti, gli approfondimenti, ma mi pare che si tratti di famiglie come tante del nostro paese, perché siamo tutta una comunità molto laboriosa, molto umile. Questo è il paese degli autotrasportatori, è un paese con una mentalità, una cultura anche contadina. Quelle famiglie dalla mattina alla sera lavorano, si spaccano proprio la schiena per portare avanti i figli, per portare avanti degli ideali sani, dei valori sempre positivi. Ecco perché ci rimaniamo male, perché come cultura e come tradizione abbiamo sempre avuto il rispetto degli altri. Proprio l'altro giorno io come sindaco, insieme ad altre donne dell'associazionismo locale, abbiamo partecipato a Sarno, il paese limitrofo, insieme al presidente della provincia, ad una iniziativa contro la violenza sulle donne, un'iniziativa bellissima alla quale abbiamo portato la nostra testimonianza, e stiamo organizzando per settembre un evento, un convegno, una riflessione che verrà fatta proprio sul nostro territorio. Ecco, proprio perché tutti abbiamo lavorato tanto, anche le amministrazioni precedenti, per l'amor di Dio, su questi temi, sul sociale, sulle politiche giovanili, che rimaniamo un po' così. Non riuscite a spiegarvelo, attonti. Non riuscite a spiegarvelo. Esatto. Abbiamo fatto una riunione stamattina, io ho convocato tutti gli associazionismi, abbiamo le scuole calcio che lavorano tantissimo su questi ragazzi, abbiamo le suore vocazioniste che da 40 anni educano con principi sani i nostri bambini. C'è una fascia d'età, siamo riusciti ad individuare questa fascia che va tra i 14 e i 18 anni, che è un po', come dire, alla quale non arrivano determinati messaggi, per cui bisogna costituire anche dei contenitori di aggregazione per questa fascia d'età, perché dopo i 13 anni i nostri ragazzi cominciano ad andare alle scuole superiori e si perdono, in città, vanno a Nocera, vanno a Sarno, vanno a Nocera Superiore, vanno a Cava, vanno a Salerno, nella città capoluogo della nostra provincia, e cominciano, come dire, a guardare un altro mondo. Certo. Quando ritornano nel nostro paese, dopo la scuola, devono avere, come dire, dei luoghi e dei momenti nei quali ritrovare, come dire, la nostra cultura, sì, le nostre tradizioni, i nostri valori. La ringrazio, grazie per la sua testimonianza, Michele Strianese, che è sindaco di San Valentino Torio. L'ultima storia che vi vogliamo raccontare è una storia che va da Brescia a Torino nel nostro giro per l'Italia. È la storia di un insegnante molto particolare che si ritiene discriminata per non essere stata assunta, e ce la racconta Katia Caramelli. Nessuna irregolarità, così ha commentato con una nota l'ufficio scolastico per la Lombardia sul caso di Maria Erminia Maglio, l'insegnante precaria agronoma di Avellino che denuncia di aver subito discriminazioni. Affetta fin dalla nascita da una emiparesi, con una idoneità all'insegnamento certificata e una laurea con 110 e lode, Maria Erminia a settembre viene chiamata per una supplenza a Brescia presso l'Istituto Agrario Pastori. Racconta di aver incontrato difficoltà e impedimenti da parte del dirigente scolastico, che le avrebbe consigliato di rinunciare, decisione da lei presa dopo alcuni mesi. Il dirigente dell'UZO fin da subito ha creato delle difficoltà per quanto riguarda l'accompagnamento dei ragazzi in azienda, per quanto riguarda il discorso delle esercitazioni aviarie. Sono stata alquanto stravolta da questa accoglienza, quindi dissi che io non avevo alcun problema ad accompagnare. Augusto Belluzzo si difende. È stato chiesto alla professoressa di sottoporsi a visita medica, dice, per l'idoneità, e il medico, dopo un primo esame, ha consigliato di affidarle solamente alcuni incarichi. La vicenda però non termina qui. Accantonata la supplenza, in primavera Maria Erminia tenta il concorsone in Piemonte. Come presidente della commissione ritrova tuttavia il direttore Belluzzo. Non passa la prova scritta. Ero alquanto turbata, in quanto non mi sarei mai aspettata di rincontrare il dirigente scolastico. I caratteri da recitare erano alquanto piccoli, quindi ci sono state delle problematiche alquanto oggettive. Ora Maria Erminia ha presentato ricorso, spera di poter rifare il concorso, attende anche una risposta dal Ministero dell'Istruzione. Il papà, Giovanni, che da sempre la sostiene, sta facendo lo sciopero della fame. Digiuno, preghiera e veglia per la verità. Noi abbiamo mandato le nostre richieste, abbiamo chiesto al ministro di studiarle, vagliarle e darci la sua illuminata risposta. Speriamo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.